Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Elgante è il traghettatore. Parliamo di bambini, e vi raccontiamo questa storia. Due musei che si uniscono per insegnare ai nostri figli come prevenire i rischi. C'è sempre bisogno di questo. Il Museo del Fumetto di Lucca e il Museo dei Bambini di Milano si sono messi insieme ed è nata Sicuropoli, che è un percorso di gioco sulla sicurezza che ha l'obiettivo di avvicinare i bambini al concetto di rischio, spiegare che esiste il pericolo e sensibilizzarli sull'importanza della prevenzione nei diversi ambiti della vita quotidiana. Un'iniziativa molto importante, vi invitiamo ad avvicinarvi attraverso una galleria di immagini che è disponibile sul sito stumf.it. E invece adesso ci spostiamo in Africa con Gian Benedetto Colombo. Buongiorno Gian Benedetto. Buongiorno. Gian Benedetto Colombo è presidente di EFREM, Economia di Riconciliazione. Avete sentito parlare, sentite parlare in continuazione del fotovoltaico come uno delle, come dire, degli scenari del futuro energetico del mondo. Quello che non sappiamo, che non sapete, Gian Benedetto adesso ci spiega, è che il fotovoltaico è oggi invece vitale per combattere l'emergenza umanitaria in Africa. La tua EFREM, Gian Benedetto, si occupa proprio di questo. Parliamo di questo da 3 anni, con una mia però esperienza previa di 46 anni di Africa. Abbiamo fatto 3 cose fondamentalmente e una quarta la stiamo iniziando. La prima, abbiamo formato circa 170 tecnici fotovoltaici in 6 paesi africani. Gente del luogo, no? Tutta gente del luogo. Noi lavoriamo solo con gente del luogo. Avete insegnato un mestiere importantissimo. Abbiamo insegnato la specificità della manutenzione, della conservazione, della gestione, dell'installazione di un impianto fotovoltaico. La seconda cosa, abbiamo creato noi stessi un sistema di produzione di energia elettrica a base fotovoltaica mobile, una valigia fatta da un pannello solare, una batteria, un inverter, un charger, che è in grado di ricaricare contemporaneamente fino ad 8 batterie di telefoni cellulari e 2 batterie di laptop e alcune lampade. Questa cosa, questa valigia, permetterà la creazione di un posto di lavoro permanente nei villaggi sprovvisti di energia, perché oggi ci sono numerosissime persone che debbono viaggiare a piedi per delle ore per poter ricaricare il loro cellulare. Questa valigia è un'iniziativa di EFREM, un prodotto inventato da voi? Inventato forse un po' troppo dire, perché non assemblato, c'è diciamo. Ecco, esattamente, creato da noi seguendo le esigenze dei villaggi africani. Ce ne sono molte di queste valigie già in giro? Ne abbiamo già vendute 60. Abbiamo cominciato l'anno scorso e abbiamo ordini per 40 ancora. Quindi sta funzionando questa? Sta funzionando perché costa 600 euro più il trasporto e ti dà un reddito medio mensile di 70-80 euro. C'è un return of investment che è altissimo. Per quelli che sono gli standard nei paesi di cui stiamo. Di quali paesi stiamo parlando? Parlando del Camerun, stiamo parlando del Madagascar, stiamo parlando del Burundi, del Kenya, della Costa d'Avorio, del Ghana, stiamo parlando un po' di tutto. Siamo al nord, al sud, siamo all'ovest, all'est. E stiamo parlando di paesi dove il fotovoltaico non è energia alternativa, come la chiamiamo noi, dico in maniera un po' snob, è energia, punto, è tutto quello che c'è. Esattamente, è proprio così, è perfetta questa definizione, perché nei villaggi remoti non toccati dalle reti di distribuzione dell'energia tradizionali che abbiamo in Europa, se non hai il fotovoltaico non hai energia. Ci dai l'indirizzo del tuo studio, così chi vuole capire meglio, magari chissà, poter anche incidere, intervenire per sostenere la tua battaglia, può farlo. Dove ti possiamo leggere? Allora, efrem-edr.org. È una bellissima iniziativa, davvero complimenti sentiti, Gian Benedetto, in bocca al lupo. Grazie mille a voi. A presto. Speriamo di risentirci ancora. Assolutamente sicuro. Arrivederci. Grazie. Chiudiamo con una notizia che arriva da Bologna, questa volta un po' meno, come dire, drammatica la situazione energetica, anzi un condominio Acer di via Gandusio ha creato un fantastico orto comune sul tetto del palazzo, come dice Andrea Segre, che è preside di Agraria e paladino della lotta allo spreco, un ottimo modo per unire sostenibilità e buon vicinato. Nel condominio Acer di via Gandusio hanno creato un progetto di coltura idroponica con il comune e con l'università di Bologna, e quindi sostanzialmente possono mangiare frutta fresca tutti bene in tranquillità e direttamente nel palazzo dove abitano. È tutto per oggi. Ferri Botti, @radio24.it, il nostro indirizzo. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Carmelo Lauricella in regia. Alla prossima.